picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. Ancora un venerdì in compagnia di Picchi di Frequenza che, dopo un curioso appello a venire immediatamente al magazzino 47 dove ci possiamo incontrare, e prima della recensione conclusiva a cura di Martino, vi porta tra le vicende dell'Ape di Milano, della sua festa del tesseramento e di una curiosa proposta. Ma prima di cominciare, le news. La prima segnalazione di oggi proviene da altitudini.it. Winterfilm arriva nelle Dolomiti bellunesi. Dal 21 gennaio al 12 febbraio, dopo l'interesse ottenuto lo scorso inverno a Pedavena con la prima edizione, quest'anno nominata Feltre Pedavena Winterfilm, una rassegna cinematografica che si arricchisce di contenuti. Un totale di 12 film, una rassegna dal titolo Altitudini, storie da condividere, una mostra dal titolo Aspettare, insomma un programma ricco, lo trovate su altitudini.it. La seconda segnalazione di oggi, per i più attenti insomma a tematiche anche di carattere storico, è la pubblicazione del nuovo numero di la rivista di Storie delle Alpi, una rivista trilingue. Abbiamo avuto occasione di incontrare nelle scorse puntate il suo direttore Luca Mocarelli. In questo numero in particolare, tratto dall'indice se riesco a trovarlo, un paio di articoli su imprese manifatturiere, imprenditori e società della montagna alpina centro-occidentale tra età moderna e contemporanea, e tra gli altri le trasformazioni del caseificio lombardo tra 8 e 900. Chiaramente sono dei numeri di approfondimento legati a tematiche storiche, ma vi invito a dare un occhio al sito internet. Il nome è impronunciabile perché labisalp.arc.usi.ch eccetera eccetera, ma se cercate rivista di storia delle Alpi qualcosa nel web lo trovate. Un'ultima segnalazione rapidissima da il sito diciamo di montagna della Stampa in collaborazione con Meridiani Montagne: cordata di solidarietà per il Nepal, 4 serate in aiuto del popolo Sherpa. Insomma, una serie di iniziative che ci tenevamo a segnalarvi in occasione dell'arrivo di Ang Tsering Sherpa, presidente della Nepal Mountaineering Association. Sarà un'occasione insomma per avere qualche aggiornamento su quello che è accaduto in questo paese dopo il terremoto e su quello che è possibile fare per aiutare insomma la ricostruzione in corso. Durante le serate si raccoglieranno fondi per aiutare i nepalesi colpiti dal sisma. Le serate in calendario dal 25 al 30 gennaio a ingresso libero. Mi rendo conto di aprire la puntata di oggi con un avviso un pochino curioso, però se ci state ascoltando in diretta o in streaming e vi trovate a Brescia o dintorni, l'invito solo per questo venerdì, solo per questa settimana, è a spegnere immediatamente la radio, catapultarvi in automobile se non avete l'auto, anzi meglio in bicicletta con un paio di auricolari, altrimenti in compagnia della vostra autoradio, al magazzino 47, perché proprio in questo momento, in compagnia di alcuni apeini di Milano e di tanti amici alpinisti, escursionisti, insomma, del Bresciano, del Gardesano, della Val Camonica, della Val Trompia, stiamo dando i Natali all'Ape di Brescia. Se il termine non fosse così, non avesse un'accezione negativa, potremmo dire che l'Ape è un po' il convitato di pietra di questa nostra trasmissione. La si cita sempre senza mai entrare nel vivo della sua storia, e quindi almeno questa settimana un passaggio ce lo concediamo. APE è l'acronimo di Associazione Proletari Escursionisti. È una vicenda lunga un secolo, perché tanto è passato da quel 1919, quando da Alessandria giunse l'appello ad abbandonare l'alpinismo maschio, eroico, estremo e militare, ovviamente, che in quegli anni, insomma, la faceva un po' da padrona, in vista di un esperimento differente. Abbiamo conosciuto 3-4 anni fa gli ultimi eredi di questa esperienza nel Lecchese, al quartiere Rancio, e l'idea ci è piaciuta talmente che anche a Milano, insomma, si è deciso di aprire una nuova sezione dell'APE. Raccontandolo in giro, la scorsa estate ci siamo ritrovati a Roma a festeggiare la prima gita dell'APE Roma, e proprio oggi, proprio questo venerdì, abbiamo la prima iniziativa di presentazione dell'APE di Brescia al Magazzino 47, in compagnia di tanti amici che dalla Valtrompia, dal Gardesano, dalla Valsabbia, dalla Valcamonica vorranno essere con noi, insieme a tanti bresciani, per inaugurare questa ennesima avventura, un alveare, uno sciame in crescita che prova oggi ad accogliere alcuni elementi di stile, alcune proposte, alcuni suggerimenti, alcune linee di evasione che già un secolo fa avevano fatto proprio questi alpinisti rivoluzionari. Ora, visto che ne abbiamo parlato anche in settimana, se in questo momento invece ci state ascoltando e non siete con noi al Magazzino 47, probabilmente vi chiederete dove va a parare questa puntata, e io ve lo dico immediatamente, perché c'è un altro appuntamento di cui vogliamo rendervi partecipi, insomma, e l'invito è aperto proprio in questo momento, che è per la festa dell'APE di Milano il prossimo 7 febbraio a Piano Terra, al quartiere Isola, in uno spazio sociale autogestito che da 3 anni è anche, insomma, la casa base dell'APE di Milano. Andiamo innanzitutto al programma. Si comincerà alle ore 13 con un gran pranzo sociale, un'ora dopo, intorno alle 14, si comincia con Cammina e Cammina, laboratorio per i bimbi dai 4 anni in su, con fiabe di camminate, marionette, uno spazio giochi per i più piccoli, insomma animazione che accompagnerà quelli che sono i banchetti, con le info della programmazione del prossimo trimestre, la possibilità di tesserarsi, insomma proiezioni, un momento di socialità per cominciare a digerire in attesa del ricco programma del pomeriggio. Una volta riavutosi dalla mangiata si comincerà per davvero intorno alle ore 15:30. Il titolo è Nocività di montagna e dissesto del territorio, concetti e strumenti. L'incontro si divide in due parti, niente di eccessivamente pesante. Anzitutto abbiamo invitato Paola Zamperlin dell'Università di Firenze, che ci aiuterà anche attraverso il suo libro a fare un attimino il punto su quelle che sono le nocività ambientali che aggrediscono oggi in questo paese i territori, su quali sono gli strumenti per analizzarle, per conoscerle e soprattutto per divulgarle, con un approfondimento evidentemente sull'ambiente montano, quindi appenninico e alpino insieme, ma con un'attenzione alla montagna abitata, a tutta la fascia delle prealpi che tra cave e tralicci, tra stoccaggi e impianti di risalita, insomma, si vede quotidianamente erosa, corrosa e aggredita dal nostro bisogno di commercializzare e finanziarizzare ogni ambiente con cui veniamo in contatto. Dicevo un incontro in due parti perché dopo questa relazione introduttiva, che sarà non eccessivamente ampia di modo da lasciare spazio anche a momenti di confronto, di dibattito, seguirà una tavola rotonda. Una tavola rotonda che ha l'obiettivo, l'ambizione di aprire la proposta di una mappatura condivisa delle nocività. Di che cosa stiamo parlando? Nei pressi dell'Ape di Milano abbiamo cominciato a mettere in serie, attorno appunto ad una mappa, quindi georeferenziando luoghi e soggetti, da una parte le nocività, dall'altra le occasioni così di resistenza, di opposizione, di ricerca critica. Tante di queste realtà sono state invitate e per questo motivo, insomma, pensiamo che in compagnia delle quattro sezioni di Milano Lecco, Brescia e Roma, in compagnia del collettivo alpino zapatista di Genova, se vorrà essere con noi, di Alpinismo Molotov, della rivista Nunatak, insomma di tante delle esperienze che anche a partire da questi microfoni abbiamo avuto occasione di conoscere in questi 3-4 mesi di esperienza, insomma ci piacerebbe confrontarci su come costruire insieme questa mappatura il più possibile dinamica e partecipativa, e insomma vediamo cosa ne verrà fuori. Il programma proseguirà poi nel tardo pomeriggio alle ore 18:30 con un aperitivo mangereccio fatto anzitutto degli avanzi dell'autopranzo e di quello che avremo occasione insieme di cucinare, e poi alle ore 21, perché come di consueto ogni domenica a Piano Terra è tempo di Cine Senza Forum, film in lingua, in questo caso Grido di Pietra di Werner Herzog. Non esiste ingresso al Piano Terra, quindi ci sarà occasione, insomma, di chiudere questa giornata insieme. Quello che finora non vi ho detto, e qui voglio arrivare, è che nel cuore del pomeriggio, invece, alle ore 17, tenteremo un esperimento. L'esperimento funziona così. Voi immaginatevi una stanza, dei tavolini, la gente attorno che beve o mangia qualcosa, insomma che chiacchiera, l'atmosfera giusta, poi a un certo punto il volume si abbassa. Di fronte c'è un tavolo, poche luci. Al tavolo troverete le tante voci che mi stanno accompagnando in questa avventura. Martino, Luca ed altri amici. Quello che vogliamo provare a fare insieme a voi, col pubblico presente in sala, è la prima puntata live, dal vivo, di Picchi di Frequenza. Non andremo in diretta tanto dal vivo sulle frequenze della radio, di Radio Onda d'Urto. Quello che abbiamo intenzione di fare è una puntata della radio col pubblico. Quindi l'invito, il 7 febbraio, è a venire con noi alla Festa dell'Ape a Piano Terra, non soltanto per, gioire insieme della crescita dello sciame apeino, ma perché questo nostro gioco di picchi di frequenza vogliamo provare a portarlo in un luogo fisico. Mi piacerebbe insomma incontrarvi, condividere con voi un momento in cui sarà possibile intervenire, scegliere le musiche, sentire e vedere dal vivo le voci di chi, insomma, dei tanti che ci aiutano ogni venerdì a costruire questa trasmissione. Quindi il 7 febbraio, Festa dell'Ape a Piano Terra, alle ore 17, vi invito tutte e tutti per la prima puntata live di Picchi di Frequenza. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and arms. Come vi anticipavo in apertura, la serata del 7 febbraio si concluderà con il Serro Torre. Andremo nella Patagonia di Cesare Maestri, di Fitzroy, prima di lui, quella delle polemiche sulla montagna impossibile da scalare, rocciando, con gli strumenti, le tecniche del 1959. Lo faremo a partire dal film Grido di Pietra di Werner Herzog, di cui vorrei farvi ascoltare l'improbabile trailer un po' ancien régime con cui il film fu presentato oltre 20 anni fa. Terra del Fuoco, Patagonia, Cerro Torre. Una lama di ghiaccio, la sfida titanica per la conquista di una montagna, del successo di una donna. Vittorio Mezzogiorno. Stefan Glovaz. Matilda May. Donald Sutherland. Dove si infrangono i venti del Pacifico. La paura, l'ossessione, la follia, il coraggio, il sospetto. Un passo falso e sei perduto. Un film verità di Werner Herzog, da un'idea di Reinhold Messner, Grido di pietra, un grido da non perdere. Il film fu accolto male, ma male male, dalla critica. Reinhold Messner, che ne ispirò la storia e in parte lo storyboard delle scene finali, lo difese meglio dello stesso Herzog, del regista, che in fondo evidentemente si rese conto di un'opera portata a metà. Noi ce lo riguardiamo volentieri, l'invito nuovamente per il 7 febbraio, ci ascoltiamo ancora un pezzo prima della recensione a cura di Martino. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. Yeah, oh yeah. Alfonso Vinci, nato nel 1915, alpinista, geologo, filosofo ed esploratore, dopo aver aperto nuove vie sulle pareti delle Alpi, fu richiamato in guerra e divenne in seguito comandante partigiano in Valtellina. Nel 1946, dopo la guerra, lasciò l'Italia per scalare le Ande e si inoltrò nelle foreste del Guayana, dove scoprì uno dei più grandi giacimenti di diamanti del Sud America e scalò per primo la parete nord del Picco Bolivar, divenendo suo malgrado un personaggio leggendario. Una cattedra di geologia all'Università di Mérida gli permise di stabilirsi in Venezuela, sempre dopo i suoi viaggi, e di effettuare il primo concatenamento della cima della cordigliera andina. La passione scientifica e lo spirito libero ed avventuroso lo spinsero a vivere tra le più isolate tribù amazzoniche, compiendo intorno alla metà degli anni 50 studi etnografici d'avanguardia ancora oggi attuali. Per questo è considerato uno dei maggiori esploratori italiani e oggi parliamo del suo libro Cordigliera, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, edito nel 1950, uscito per la prima volta nel 1959 e edito nuovamente in questi mesi con merito dalla casa editrice Alpin Studio. Alfonso Vinci, infatti, alpinista, dopo essere stato alpinista di successo nelle Alpi, partì negli anni 50 per il Sud America con l'intento di scalare le Ande. Dopo incredibili avventure nelle foreste del Guayana, dove scoprì appunto il più ricco giacimento di diamanti del Venezuela e dove visse a contatto con le tribù selvagge che all'epoca erano ancora pressoché sconosciute, coronò uno dei suoi sogni, cioè scalò per la prima volta l'inviolata parete nord del Picco Bolivar. Ma non fu creduto. Morirà e sarà pasto dei condor se tenterà di scalare la vetta, titolavano i giornali venezuelani. Ma Vinci lanciò la sfida e in una violentissima polemica, sempre sugli stessi giornali, ripeté l'ascensione davanti alla folla, che lo acclamò come un eroe. Nacque così l'ambizioso progetto di concatenamento delle maggiori cime delle Ande e partì la spedizione panandina, fatta con alcuni amici italiani ed pochi altri conosciuti in Venezuela, con due compagni proprio italiani e una vecchia Lincoln, che un tempo era stata una macchina di lusso. Furono compiute ascensioni su cime ancora inviolate di Venezuela, Colombia, Ecuador e Perù. Il libro risulta così un racconto non solo alpinistico, ma che delle Ande svela il clima, la vegetazione, i drammi geologici, l'erosione, la storia delle popolazioni, le dure condizioni di vita degli anni 60, il tutto con l'occhio di chi rifugge dai circoli dove si allevano scienziati ed esploratori, anzi, li critica più e più volte durante il racconto, e cerca la compagnia di persone semplici che vogliano, come lui, umilmente conoscere il mondo. Alfonso Vinci, Cordigliera. Anche questa puntata di Picchi di Frequenza volge al termine. Io, come ogni settimana, come ogni venerdì, vi ringrazio per l'ascolto, invitandovi a idee, segnalazioni, critiche, suggerimenti, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sull'account del social network azzurro @abuzzo3 o su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza, così da fare ascoltare e conoscere questa nostra piccola trasmissione anche a chi non ha la possibilità di seguirla sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto. Noi, come di consueto, ci sentiamo il prossimo venerdì alle ore 20 e poi alla puntata speciale live da Piano Terra il domenica 7 febbraio a partire dalle ore 17 circa al quartiere Isola in via Federico Confalonieri al civico 3. Buon ascolto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.